Incontri di Gianfranco Fabi. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. L'avete forse riconosciuta, è Riders on the Storm dei Doors. Con queste note iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buon pomeriggio a dottor Giuseppe Sala. Buongiorno e buona domenica a tutti. Giuseppe Sala, amministratore delegato di Expo 2015, Cavalieri nella tempesta, questa canzone dei Doors indica un po' quello che le aspetta, che sta seguendo in questo periodo e che l'aspetta dei prossimi anni. Expo 2015, mancano 2 anni, l'orologio segna inevitabilmente il tempo. È una tempesta quella che deve affrontare? Ma non proprio una tempesta, mare mosso. Diciamo, questa è la mia canzone preferita, tra l'altro, una canzone del 71 e avevo 13 anni, diciamo, gli anni in cui cominci a comprare i tuoi dischi, erano 45 e me lo sono portato dietro. E ce l'ho ancora il 45 giri. Ma sì, no, diciamo che questa avventura di Expo è un'avventura con, ma sempre un po' mosso, grande attenzione, ma che è anche molto molto divertente, e questo dà la motivazione poi ad andare avanti. Quindi appunto c'è un problema da affrontare, ci sono tante soluzioni da scegliere, però la sua esperienza in questi mesi guardando in avanti è quella che ci possono essere delle soluzioni per problemi anche imprevisti. Sì, diciamo, la bellezza di questa iniziativa per uno come me, che insomma di base è un manager e quindi è abituato alla razionalità delle scelte, è che creare l'esposizione universale vuol dire fare un esercizio appunto di creatività. Sì. E quindi anche questa capacità di continuare a muovere la direzione della nave. Però la cosa positiva è che la percezione a livello internazionale di questo evento è notevolissima, e questo appunto ci mette in tranquillità, sapendo che poi appunto giorno per giorno il progetto va sempre un po' assestato. Ecco, che cosa l'ha sorpresa di più dal momento in cui ha detto di sì, va bene, alle prime settimane, ai primi mesi appunto di impegno? Che cosa non si aspettava, anche di positivo magari, in questo cammino? Ma diciamo, allora, per così dire, di negativo, insomma, un po' bisognava aspettarselo, ma insomma è un progetto, un evento che è difficile da spiegare. Non è l'Olimpiadi, certo. È self-explaining, quindi... E quindi una lunga fase in cui conquistare un po' di credibilità è stata difficile, diciamo. Di positivo, di superiore alle mie attese, è quello che dicevo prima, insomma, quando si fa una cosa bene, con garbo, una cosa italiana, e viene fatta bene, con garbo, all'estero piace. E la sorpresa per me, ripeto, che venivo da un mondo privato, avendo fatto... solo nell'ultima fase per un anno e mezzo City Manager di Milano, ecco, vedere gli uomini della Farnesina, cioè i nostri diplomatici in giro per il mondo, che noi a volte magari rischiamo di vedere come dei burocrati seduti in belli uffici in giro per il mondo, ecco, estremamente attivi nel promuovere questa cosa italiana e questa cosa di valore. Ecco, lei ha avuto, accennava prima, un'esperienza nel settore privato, da dirigente in Pirelli prima, in TIM, in Telecom, in grandi imprese con logiche private. Ha scoperto che anche nel settore pubblico ci possono essere le stesse logiche, la stessa efficienza? Ci sono delle diversità che stanno proprio nelle logiche di base. Faccio un esempio: nel mondo privato quello che conta è il bilancio consuntivo. Certo. Nel mondo pubblico, con un po' di semplificazione, è il bilancio preventivo, cioè quante risorse hai e dove le investi. Come ad esempio nel mondo pubblico iniziare degli investimenti è fondamentale, poi è quasi una via di non ritorno, quando è iniziato devi per forza andare avanti. Ecco, l'iniziativa dell'Expo è iniziata, diciamo, in maniera forse un po' confusa, in un periodo in cui anche la credibilità italiana non era ai massimi. Poi è cambiata, adesso lei ha preso in mano questa macchina e anche la credibilità italiana è un po' migliorata negli ultimi anni, questo si avverte. Ma noi abbiamo perso onestamente un po' di tempo all'inizio, questo è abbastanza chiaro. Però ultimamente sì, la credibilità è migliorata. Faccio anche un piccolo esempio. Noi una volta all'anno facciamo questo International Participant Meeting, cioè invitiamo i delegati di tutto il mondo per fare il punto sul nostro lavoro. È venuto a chiudere questo meeting che c'è stato il primo novembre, sì, esatto, qui a Milano, è venuto il presidente Monti a chiuderlo, ha fatto un discorso onestamente molto ben fatto, molto di supporto, molto ironico, molto simpatico, e i delegati da ogni parte del mondo se ne sono tornati a casa con questo senso del paese che c'è dietro l'Expo. È stato veramente un momento di svolta. Ecco, questa settimana, tra l'altro, la ringraziamo di essere qua dopo una settimana molto impegnativa. Ci sono stati anche tre momenti, mi sembra, importanti. Forse ne può aggiungere un altro: uno l'accordo con la Cina, l'altro il padiglione italiano e l'altro questo incontro a Parigi in cui si è fatto il punto sull'avanzamento dei lavori. L'ho detto sì, giusto? Sì, è una specie di esame semestrale che facciamo. Di nuovo lì di fronte a tutti i delegati facciamo il punto dove siamo arrivati. Direi che in questo momento abbiamo il vento in poppa. Ovviamente il progetto piace moltissimo, c'è consapevolezza sul fatto che investiremo bene i nostri soldi, io ne sono convinto. È chiaro che è una corsa contro il tempo, io lo dico sempre, ma al di là di dirlo, il problema è che ce l'ho in testa ogni giorno. Il taglio del nastro in che giorno avverrà? 1 maggio 2015. Poi ci sono dei passaggi intermedi. Adesso diciamo un passaggio intermedio importantissimo, se vogliamo, il vero passaggio sarà fra un anno, quando noi dovremo consegnare ai paesi i lotti attrezzati dove i paesi stessi costruiranno i loro padiglioni. E comunque si sta lavorando, passando sull'autostrada di fianco all'area dell'Expo, si vedono le ruspe in azione, si sta lavorando alacremente. Sì, sì, sì, a questo punto si sta veramente lavorando alacremente, quindi in questo momento si vedono i lavori, abbiamo portato appunto i nostri ospiti internazionali a vedere i lavori, per dare il loro senso che insomma si procede. Ecco, nel progetto è cambiato qualcosa in questi ultimi mesi, pragmaticamente, guardando un po' le esigenze degli espositori, magari anche le esigenze dell'area vista un po' meglio rispetto a quelle che erano i progetti iniziali? Ma più che in questi ultimi mesi, diciamo che io ho creato abbastanza il progetto, non che non fosse un buon progetto quello iniziale, ma ho pensato che fosse necessario interpretarlo dando un tenore molto tecnologico, perché poi il dibattito, la visita, le performance, eccetera, eccetera, onestamente oggi vanno condite da tecnologia, che è un fattore abilitante. Dopodiché c'è un assestamento continuo, ma fondamentalmente questo assestamento deriva dal fatto che abbiamo ormai aziende importanti, nostre partner, che con noi sviluppano il progetto. Per fare un esempio, Telecom Italia farà la rete di telecomunicazioni, certo. Ma Enel farà la rete energetica e l'illuminazione e Finmeccanica farà i sistemi di sicurezza, per fare degli esempi. E quindi con loro assestiamo il progetto. Ecco, però all'Expo saranno presenti i paesi più che le aziende. Esatto, e su questa base poi c'è il tema dei paesi. Ora qua, cercando di fare breve una lunga storia, quando noi diciamo che ci aspettiamo l'adesione di 130 paesi e siamo a 111, vuol dire che circa 60 costruiranno i loro padiglioni. Il resto sono raggruppate dall'ente organizzatore, quindi da noi, storicamente secondo un unico criterio che era la geografia, cioè tutti gli africani assieme, tutti quelli delle isole del Sud-Est Pacifico assieme, e con, adesso senza essere sgradevole, ma insomma con un risultato a volte un po' triste, non molto attrattivo per il visitatore. Noi ci siamo inventati questa piccola cosa, questo piccolo colpo di genio italiano. Li raggruppiamo secondo dei cluster per prodotti. Tutti quelli del caffè assieme, tutti quelli delle spezie assieme, tutti quelli del riso assieme. Proprio per esaltare un po' il tema dell'Expo, nutrire il pianeta, quindi partendo un po' dalla base del problema alimentare. Esattamente, e per rendere la visita più interessante e per dare anche un grande supporto ai paesi, alla loro economia, alla loro tradizione, al loro futuro. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. Ancora con le note dei Doors, Riders on the Storm, riprendiamo il nostro incontro con Giuseppe Sala, amministratore delegato di Expo 2015, che ringraziamo di essere con noi questo pomeriggio. Abbiamo visto nella prima parte un po' questo processo di avvicinamento, i problemi da affrontare, affrontati, l'immagine di questa Expo dedicata appunto a nutrire il pianeta. Parlavamo già dei primi progetti che sono stati presentati dai paesi, 111 mi sembra finora. 111, sì. E obiettivo di arrivare a 130. Sì, che ci arriveremo credo abbastanza in fretta. Abbastanza rapidamente. Alcuni paesi hanno fatto la corsa per arrivare. Il primo è stata la Svizzera, che ha presentato già anche il suo progetto di padiglione. Ecco, c'è una volontà anche dell'Expo, deve dare il proprio ok ai progetti perché rispettino un po' la filosofia di questa esposizione, nutrire il pianeta e energia per la vita. Sì, noi abbiamo con i paesi condiviso una guida che riprende i contenuti del tema e come quindi i padiglioni dovranno essere fatti. Poi quelli diligenti, come gli svizzeri, addirittura ci hanno invitato un nostro dirigente nella commissione di gara che ha giudicato il progetto. Loro hanno fatto un concorso a livello europeo, si sono visti arrivare più di 100 progetti, ne hanno scelto uno, non sapendo chi l'aveva fatto, e quindi ha fatto una cosa molto da svizzeri, da una parte i progetti, dall'altro il nome degli studi. Uno di noi era nella giuria, quindi fondamentalmente c'è molta interazione da questo punto di vista. Ecco, l'Italia ha avuto qualche piccolo problema di partenza anche sul fronte del proprio padiglione. Sì, adesso è stata nominata la dottoressa Bracco, come si sa, presidente di Expo, è stato nominato anche commissario italiano, è stato alcuni giorni fa lanciato il concept e quindi cosa l'Italia vuole che si rappresenti, e anche da quel punto di vista a questo punto è una corsa. È chiaro che è molto importante, cioè il successo dell'Expo dipenderà anche in buona parte dalla bontà del risultato del padiglione italiano, quindi faccio i miei auguri alla dottoressa Bracco, ma al contempo la stimolo a fare un ottimo lavoro. Ecco, quindi ci sono questi progetti che stanno procedendo, l'avevo detto nella prima parte, l'area sta per essere appunto non rimessa a punto per ospitare questi progetti, ogni paese dovrà presentare il suo, però ci vorrà un'unità di fondo. Cosa farà l'Expo di proprio, al di là dei padiglioni che ospiteranno i singoli paesi? L'Expo farà, innanzitutto anche noi faremo alcuni padiglioni tematici, sempre per fare un esempio, uno che si chiama Future Food District, cioè il distretto del cibo del futuro, dove simuleremo come sarà la cucina del futuro, il frigorifero del futuro, il microonde del futuro o il supermarket del futuro, quando andremo a comprare i prodotti come saranno, o il ristorante del futuro. Ecco, daremo uno spaccato sul futuro. Oppure un altro che è dedicato all'arte, al rapporto tra l'arte e il cibo. E immaginiamo, siamo a Milano, iconicamente l'Ultima Cena, il Caravaggio, l'Arcimboldo e via discorrendo. Quindi noi faremo alcuni padiglioni tematici, ci occuperemo del fatto che ci sia coerenza progettuale tra tutti i paesi e supporteremo poi alcuni paesi. Ecco, questo è interessante. Ci sono alcuni paesi, segnatamente dei paesi del Golfo Arabo, che ci dicono, ma insomma siamo a Milano, la patria del design, dell'architettura, perché non ci date un aiuto nel costruire, nel progettare i nostri padiglioni? E in effetti è qualcosa su cui stiamo lavorando, ma è qualcosa anche di molto molto interessante. Ecco, saranno comunque delle strutture tutte leggere, non delle strutture particolarmente impegnative da un punto di vista architettonico, ingegneristico, perché comunque sarà un'esposizione che durerà 6 mesi. Sono strutture che sono destinate per la maggior parte ad essere smantellate, noi dovremmo liberare l'area per il giugno dell'anno successivo, il 2016, questo poi aprirà il dibattito su cosa in futuro, certo, si farà in quell'area. Noi quello che facciamo è infrastrutturarla al meglio. Poi può anche essere che alcuni padiglioni rimangano. Per fare un esempio, il padiglione italiano a Shanghai è rimasto, cioè i cinesi hanno chiesto di lasciarlo e di riconvertirlo in un museo del design italiano, quindi potrà anche essere. Si vedono a volte delle sorprese di questo genere e si vede come la geopolitica e l'economia cambia, cioè per fare un esempio il delegato vietnamita ci dice ma no, io voglio uno dei padiglioni più grandi. Noi siamo nella felice situazione di aver praticamente esaurito la disponibilità dei padiglioni più grandi, perché ci sono questi paesi emergenti che ti dicono ma io fra qualche anno sono la decima potenza del mondo, ma non è neanche da pensare che ho un padiglione più piccolo. Quindi anche una visuale interessante per capire dove il mondo va. C'è anche concorrenza forse tra i paesi per presentarsi al meglio. Ecco, come immagina la giornata tipo di una persona che viene magari da lontano e che viene per l'Expo? Quanto tempo ci vorrà per visitare? Ovviamente non tutto, perché magari ci vorranno 15 giorni, ma le cose più importanti, cosa immaginate che una persona si fermi 1 o 2 giorni, che abbia... Quali sono i programmi medi che stimate per il visitatore dell'Expo? Questa è un'ottima domanda. Se cerchiamo un attimo di paragonare il visitatore dell'Expo al visitatore turista delle Olimpiadi. Quello delle Olimpiadi è un appassionato dello sport, va a Londra e sta a Londra. Il visitatore dell'Expo è un visitatore curioso, attratto dal tema. Tecnicamente, dalle nostre analisi, da quello che abbiamo visto succedere in passato, sta, mi lasci dire, 6 ore all'interno dell'Esposizione Universale e poi da lì, soprattutto se viene da lontano, si vuole muovere e noi lo dobbiamo aiutare per il paese. Quindi il visitatore dell'Expo è anche un turista per l'Italia, certo. E su questo stiamo costruendo un'idea di come può essere immaginato in questi 6 mesi un turismo diverso. Ecco, ma l'Expo ha un'ottica unicamente divulgativa, educativa, di conoscenza o ha anche qualche aspetto di business? Ma diciamo innanzitutto lo scopo fondamentale è l'educazione. Certo che va inteso in quello che gli anglosassoni chiamano, diciamo, edutainment, cioè dobbiamo immaginare che il dibattito puro è il 15% del tema, l'85% è un grande show che porta la gente a pensare, a vedere le cose e via discorrendo. Rimane il fatto che ci sono dei problemi enormi sul tema dell'alimentazione che vanno affrontati. No? Per fare un esempio, secondo quanto dice la FAO, un terzo degli alimenti oggi è buttato via, tra quanto non è raccolto, quanto non è distribuito e quanto noi compriamo e buttiamo via. Oppure, tutti parlano di chilometro zero, di OGM, di bio, ma pochi sanno qualcosa di concreto. Ecco, allora, diciamo, è un tema che si apre a declinazioni culturali, scientifiche, sociali importanti, ma bisogna immaginare che il visitatore vorrà divertirsi imparando. Ecco, in un certo senso, anticipato già prima, diceva c'è anche un aspetto innovativo, tecnologico, cioè parlare di alimentazione non è solo parlare di cose tradizionali, è anche un modo di approcciare sia i temi grandi della produzione, sia i temi, direi, normali, quotidiani, del tipo di fare la spesa e usare meglio la possibilità di scegliere. Quindi anche su questo piano sarà qualcosa che potrà attirare, diciamo, tutti. Sì, un po' l'idea è quella di nuovo, di simulare una specie di smart city. Si parla tanto di questa smart city, poi di fatto però la nostra riflessione è, guarda, da lì passano 150.000 persone al giorno su un'area di 1 milione di metri quadrati, è un bellissimo esempio di come si può far vedere alla gente che vive usando la tecnologia. La tecnologia, io sono un uomo che arriva alla tecnologia, non è mai un fine, ma è uno strumento. E in questa fase noi vediamo che obiettivamente i servizi si stanno aprendo. Ecco, sul fronte appunto anche dell'accessibilità all'Expo si è parlato appunto di problemi, collegamenti, tutto sta procedendo secondo il calendario, la linea della metropolitana, il collegamento ferroviario con Malpensa, queste cose ci saranno? Non è tutto a posto, è chiaro che lì la metropolitana oggi ci arriva, quello che a noi, cioè in città si sente parlare molto dell'M4 e M5 che servono per la città e per le persone che stanno in città. Lì arriva la M1, che c'è, ATM ha aggiudicato questa gara per nuovi treni, arriva l'alta velocità da Torino, per fare un esempio, da Porto Susa a lì 34 minuti, è in mezzo a 2 autostrade, quindi logisticamente non è messa male l'area. Ecco, c'è molta attesa su questo profilo, ma Ingegner Sala, lei nel 2016 cosa pensa di fare? Magari qualche mese di vacanza quando chiuderà i battenti l'Expo, avrà sistemato poi le cose, ma non ha in un certo senso qualche, diciamo così, imbarazzante il fatto di fare una cosa che si sa che poi finisce? Guarda, non è che mi pongo la domanda, però diciamo, se provo a fare uno sforzo di onestà e di sincerità, io ho lavorato per 23 anni nel mondo privato ed ora da 4 lavoro nel mondo pubblico. Ecco, dico solo che farei fatica a ritornare a una professione da manager puro. Mi piace, questa idea sarà un po' folle, ma questa idea di occuparmi della cosa pubblica mi piace, quindi... Detto ciò, non ho la più pallida idea. No, ma ecco, io non penso che sarà un problema trovare un posto di lavoro. Se andrà bene l'Expo, naturalmente, per cui dobbiamo fare tutto il tifo perché vada bene. Ma che cosa le piacerebbe fare, proprio appunto, lei diceva, cercare di sistemare delle organizzazioni complesse, forse questa può essere? Sì, fondamentalmente è chiaro che il mio DNA è qua, no? Cioè prendere in mano progetti, realtà complessi e rendere fattibili anche delle idee, del sogno. Ecco, io spero di avere maturato la coscienza sociale, l'attitudine a pensare di cosa ha bisogno il mondo pubblico, mettendoci il metodo che un manager ha. Ecco, lei ha delineato un po' l'identikit del perfetto politico, ma di questo non parliamo, guardiamo concretamente ai prossimi mesi. Il prossimo passo, invece, nei prossimi giorni, il prossimo obiettivo che vuole raggiungere a brevissimo termine? Ma abbiamo, diciamo, nei prossimissimi giorni stiamo, aggiudicheremo settimana prossima, sperabilmente, un'altra gara per aziende che è per il partner logistico, e quindi la movimentazione che è molto importante. So che stanno arrivando altri paesi e poi... Mancano ancora gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno la necessità di farsi finanziare totalmente da fondi privati, a differenza degli altri paesi, e poi c'è questo punto. Stiamo lavorando con la Farnesina per intensificare il lavoro sui paesi importanti mancanti, e qualcuno ne manca. Comunque, allora, il lavoro non manca sicuramente, non mancherà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, in vista del 1° maggio del 2015. Ci diamo appuntamento per l'apertura dell'Expo 2015. Grazie, ingegner Sala, di essere stato con noi questo pomeriggio. Così come ringrazio Gianmarco Ferronati in regia e Luca Cremonese in redazione, vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona domenica.